le stagioni, la notte, il giorno e l'uomo. Come spieghi che se ci si innamora si perde il senno? Come spieghi che quel che dico non è mai quello che provo? Come spieghi